Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Guardie o ladri, se preferite, lo trovate attraverso un motore di ricerca, blog sul quale, come sapete, amo trattare temi di criminalità organizzata e di legalità. E ancora una volta, oggi in radio, parliamo proprio di questo, con un avvenimento che mi ha colpito molto, perché accade in provincia di Foggia, quindi siamo in Puglia, dove ad un parroco, un prete, Don Mimmo Niro, accade qualcosa di spiacevole nel comune di San Paolo Civitate, 6.000 abitanti, un piccolo comune in provincia appunto di Foggia. Accade che gli bruciano l'auto. Voi direte, beh, vabbè, magari una casualità. Eh no, non proprio una casualità, perché a questo sacerdote in precedenza era stata rubata, poi con il classico cavallo di ritorno gli era stato chiesto un tot per riavere indietro l'auto. Non so come sia andata a finire, e ora lo sentiremo dalla sua viva voce, so che però poi alla fine l'auto gliel'hanno incendiata, e allora lui con coraggio, anche perché proviene da un paese devastato dalla criminalità organizzata, micro e macro, Sansevero in provincia di Foggia, tuona in omelia. Buongiorno Don Mimmo Niro. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, Don Mimmo, quell'auto, quel cavallo di ritorno, lei aveva pagato i 3.000 euro? No, assolutamente, anzi io piuttosto anche in maniera accesa ho fatto capire all'interlocutore telefonico che mi chiedeva appunto questo pizzo che non ero assolutamente disponibile a fomentare e ad alimentare con i miei soldi la criminalità e la malavita. Assolutamente. Perché... d'accordo con lei. Ecco. Ed allora poi come è rientrato in possesso dell'auto? Praticamente a parte diciamo questa telefonata, poi ce n'è stata un'altra in cui chiedevano ancora se ci avessi ripensato, comunque io ho fatto sempre orecchio da mercante a questa richiesta, mi ero rivolto per la denuncia e quindi anche diciamo chiedere che potessero fare qualcosa la polizia di Sansevero, il commissariato della polizia certo. di Stato. E lì ho trovato un ispettore abbastanza disponibile e mi ha detto che, avendo preso la mia denuncia, mi ha detto che avrebbe fatto di tutto per cercare di risolvere questa situazione, perché comunque è l'unica auto che ho e tra l'altro la uso anche per il ministero, per cui insomma mi avevano certo. in qualche maniera tagliato le gambe. Certo. Allora, ma gliel'hanno trovata loro quindi l'auto? Ora, la polizia dopo 15 giorni esatti proprio, cioè dal 14 luglio al 29 luglio, il 29 luglio mattina da parte di questo ispettore, Don Mimmo, abbiamo ritrovato l'auto e insieme con la tua abbiamo ritrovato anche altre due auto in un vigneto sulla strada Lucira Sansevero Lucira. E quindi lei era contento? Come? Quindi lei certo era contento? Contento, ci mancherebbe. Ho detto, abbiamo preso due piccioni con una fava, cioè ho ritrovato l'auto, ma nello stesso tempo ho fatto capire, forse sarebbe bello che capissimo, che se ci riferiamo in maniera giusta, dettagliata anche, non omertosa, insomma, ecco, alle forze dell'ordine, noi dei risultati li otteniamo. Ecco, però qualcuno non deve averla presa bene nel paese, perché poi l'auto gliel'hanno incendiata. Ah beh, io non lo so se sono del paese o non del paese. Beh, per comunque... carità di Dio, certo, voglio dire, nessuno può ancora saperlo se non sono stati arrestati, però certo. Un dato di fatto rimane, l'auto gliel'hanno incendiata. Sì, dopo un mese e mezzo me l'hanno incendiata. Oh, benissimo, cioè malissimo, codardi e vigliacchi ovviamente coloro i quali hanno commesso questo gesto, però lei... poteva tenersela, invece no, e ha fatto bene a tuonare in omelia. E sapesse certo. quanto mi piacerebbe che tutti i preti tuonassero in omelia, soprattutto al sud, ma ahimè questo non sempre e non spesso allora, accade, voglio... come sappiamo, mi scusi certo. soltanto con l'inciso di quello che è successo alcune settimane fa in Sicilia, dove un sacerdote ha ringraziato anche alcune famiglie dichiaratamente mafiose del loro aiuto possibile per la ricostruzione o la ristrutturazione della Chiesa. Ma andiamo avanti. Non condivido questa Beh, certo. cosa del mio confratello, ma certo. comunque rispetto anche quello che lui ha fatto. Sì, sì, per carità, ognuno è libero di fare quello che benissimo. Vuole. Io semplicemente volevo aggiungere che, signor Galullo, il mio dire non è stato successivamente al fatto dell'incendio dell'auto, ma quando io non ancora ritrovavo la macchina. Ah, quindi, bene, questo le fa ancora più onore. Allora, una domenica del mese di luglio, il 26 precisamente, avendo qui in quella occasione, noi abbiamo la festa di San Paolo, che è la seconda festa del paese, che celebriamo nei primi giorni di agosto. Proprio introducendo la novena di San Paolo, io ho detto, guardate, sapete che sono stato vittima di questo furto, io ho fatto denuncia, dobbiamo, a questo punto ho detto alla gente che stava lì in piazza, perché era una messa all'aperto, ho detto non possiamo abbassare la testa di fronte a questi signori, loro devono aver paura di noi, ma non perché dobbiamo usare violenza nei loro confronti, ma semplicemente perché devono capire che noi siamo una forza, siamo un corpo, noi dobbiamo essere solidali, dobbiamo saper denunciare, non dobbiamo chiudere gli occhi, non Benissimo. Dobbiamo essere omertosi. Io la fermo un secondo qui, Don Mimmo, perché a questo punto voglio sentire chiamare in causa il primo cittadino, no? Si chiama così, il sindaco di un comune è il primo cittadino e quindi deve, e non ne ho dubbi, rappresentare il massimo dei valori di una comunità e di una collettività. Abbiamo già detto che Don Mimmo viene da un paese come San Severo, dove ha denunciato il caporalato. Sapete che nel Tavoliere delle Puglie il caporalato è una delle piaghe immense che infestano questa splendida parte della Puglia, ed è in mano alla criminalità il caporalato, così come avviene anche per esempio nella Piana di Gioia in Calabria. E quindi il suo coraggio c'è e lo abbiamo sentito. Dottor Perna, sindaco di San Paolo Civitate, lei il coraggio lo dimostra e come? Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Perna. Ma guardi, noi siamo già da un po' di tempo presenti nel territorio proprio a denunziare questo, l'abbiamo fatto più volte. È chiaro che quello che è accaduto nel nostro piccolo paese è un atto grave che non può e non deve essere preso sotto gamba. Comunque posso affermare senza nessun'ombra di dubbio che gli organi preposti sono intervenuti immediatamente con la massima sollecitudine e ancora oggi stanno valutando tutte le ipotesi per quello che è potuto accadere. Ecco, ma c'erano stati altri casi come questo? Sì, c'è stato un altro caso qualche mese fa di un'altra persona che comunque non aveva sottostato al ricatto e quindi non aveva pagato e qualche giorno dopo gli è stata incendiata l'auto sotto casa. Quindi ecco, quindi il messaggio che passa ecco. È un dato purtroppo ricorrente. Il dato che passa è: se tu non paghi io ti incendio l'auto. Sì, sì, questo è il dato che purtroppo passa. Non so se sia questo il caso di Don Mimmo, se Don Mimmo, avendo più volte tuonato anche durante le omelie contro la criminalità organizzata, non vorrei che fosse potesse essere praticamente un richiamo abbastanza pesante a Don Mimmo. Certo, questa sarebbe un'ipotesi ancora più grave. Sarebbe ancora più grave, certo, anche certo. Se la prima ipotesi comunque non è da sottovalutare, perché in un paese come il nostro, che è prettamente agricolo, quando spessissime volte vengono rubati anche trattori e poi viene chiesto il riscatto, insomma lei capisce bene che un agricoltore si trova nella situazione dove puoi decidere se pagare oppure se fare tenere il polso fermo e non pagare, però con poi la ritorsione da parte della quello che lei della quello realtà. Che lei sta dicendo introduce un elemento, come dire, altrettanto preoccupante ed inquietante, perché insomma ci sarebbe stato addirittura un salto di qualità: dai trattori si passa alle auto. Ma mi tolgo una curiosità, Perna, è possibile che in un paese piccolo come il vostro, 6.000 persone, non si riescano ad isolare i facinorosi, i delinquenti, magari anche quei piccoli qua che credono di essere dei delinquenti soltanto perché incendiano un'auto, in realtà sono dei miserabili, dei meschini? Guardi, noi abbiamo molto l'influenza di un paese grande come quello di San Severo. Certo. Sapete che noi stiamo a 12 chilometri, quindi molto probabilmente da noi ci può essere qualcuno, però la maggior parte poi arriva purtroppo dai paesi limitrofi. Poi certo. Mi lasci fare una piccolissima nota nota polemica. Se i nostri politici romani si impegnassero meno, si preoccupassero meno dello d'Alfano, del codice, si preoccupassero di più della certezza della pena, forse molti di questi problemi noi riusciremmo a risolverli, perché è normale che se le forze dell'ordine, che tutti i giorni sono sulla strada a rischiare la vita, arrestano un delinquente e dopo qualche giorno, per un cavillo o per altre cose, questo delinquente viene messo fuori ed è pronto a sbeffeggiare sia le forze dell'ordine, o peggio anche che sbeffeggiare, o anche chi con la propria testimonianza li ha fatti arrestare, lei capisce bene che diventa sempre più difficile poi il lavoro delle forze dell'ordine, anche il lavoro di chi come Don Mimmo cerca di convincere le persone a assolutamente tenere duro, ma che poi si vedono insomma... Ecco, io sottoscrivo con 100 firme quello che lei ha detto, nel ringraziarla la saluto, così come saluto Don Mimmo Nero, quindi... mi raccomando, fatevi forza voi, soprattutto in un territorio che spesso viene sottovalutato dalle forze politiche italiane quanto a pervasività della criminalità organizzata. Forza Puglia, lasciatemelo dire senza scimmiottare inni politici ovviamente. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella e in redazione Antonella Migliaccio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo